Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Grecia in piazza contro il piano di austerità del governo necessario per non perdere gli aiuti internazionali. In questi minuti previsto il voto in Parlamento. La manovra da 47 miliardi domani all'esame del Consiglio dei Ministri dopo l'accordo all'interno della maggioranza. P4, la giunta per le autorizzazioni della Camera rinvia il voto sulla richiesta di arresto per Alfonso Papa. È morto il ragazzo picchiato a Roma senza una ragione sabato notte in manette due giovani. Un buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. In primo piano, l'avete sentito nei titoli, la crisi greca. In Grecia infatti in questi minuti è atteso il voto sul nuovo piano di austerità messo a punto per non perdere la nuova tranche di aiuti internazionali. Intanto piazza Sintagma ad Atene, la folla grida e manifesta contro Italia, la situazione è molto tesa. Allora, fra poco aspettiamo l'annuncio del voto. Qual è la tua sensazione? Sì, la sensazione è che il Parlamento greco che vota oggi il piano d'austerità dovrebbe farcela, perché ci sono 155 deputati del PASOK, il partito socialista di maggioranza, su 300 totali. Quattro di questi avevano alla vigilia manifestato molta incertezza e questa mattina uno dei quattro ha detto che probabilmente voterà a favore. Poi ci sono cinque transfughi di Nuova Democrazia, il partito di centrodestra, che si oppone alle misure, e questi cinque invece appunto sarebbero pronti a votare a favore, quindi una situazione che in qualche modo dovrebbe rassicurare. Però attenzione, perché oggi è solo il primo voto, domani c'è quello più importante, quello sui dettagli della manovra, quindi oggi si vota il piano in generale, la strategia, in qualche modo quindi è meno politicamente difficile. Domani invece si entrerà nel vivo dei tagli e quindi lì magari si potrà avere qualche defezione. Ecco, nel frattempo la piazza sotto il Parlamento di Atene rumoreggia, ci sono slogan contro il governo. Sì, esattamente, la situazione è molto tesa perché da giorni soprattutto i gruppi dell'estrema sinistra e della sinistra anarchica, quelli che si radunano nel quartiere di Exarchia, quelli più esagitati, sono diventati padroni del campo, spodestando gli cosiddetti indignados che avevano pacificamente preso un po' la leadership della protesta. Ecco, in questo momento la protesta è tornata in mano ai facinorosi, a coloro che insomma tanto peggio tanto meglio, e questa è la vera chiave di svolta. Cioè, se dovesse essere la protesta dovesse passare in mano alle forze più estreme, questo sarebbe un vero pericolo, perché l'anno scorso quando questo avvenne successe il rogo della banca dove, certo, morirono poi gli impiegati. Questo è il vero problema che c'è, e poi non dimentichiamo la Grecia ha avuto anni di terrorismo molto molto pesanti. Vittorio, resta qua con me, così se dovesse arrivare la notizia del voto la commenteremo insieme. Nel frattempo andiamo avanti con il nostro giornale. Sappiamo quanto la crisi greca stia pesando anche sulla politica economica del nostro paese. Ieri l'accordo nella maggioranza sulla manovra fra i 43 e i 47 miliardi che approderà domani al Consiglio dei Ministri. In diretta Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Ammontare della manovra ancora da definire in realtà per un testo che arriverà domani sul tavolo del Consiglio dei Ministri, prima 43 miliardi, poi 47 secondo le ultimissime indiscrezioni, l'impatto sui conti pubblici da qui al 2014 dovrebbe superare di poco i 41 miliardi di euro, di cui 1,8 quest'anno, 5,5 il prossimo, 14 nel 2013 e 20 l'anno seguente. Il provvedimento è tuttora in continua evoluzione, lo stesso Tremonti ha aperto a correzioni fino a domani quando il provvedimento approderà a Palazzo Chigi. Si starebbe trattando soprattutto sul capitolo previdenza, in particolare sull'aumento dell'età per la pensione delle donne nel settore privato. Ulteriori novità potrebbero arrivare sia sul fronte della delega fiscale, al momento di fatto assente, sia sui tagli alla politica. Le maggiori certezze riguardano invece blocco ancora per un anno del turnover nel pubblico impiego e sempre per un anno degli aumenti per gli statali, stop alla rivalutazione delle cosiddette pensioni d'oro, ritorno dei ticket sanitari, 10 euro per le prestazioni specialistiche, 25 per i codici bianchi al pronto soccorso. ricorso, addio ai tagli lineari nei ministeri, alleggerimento del patto di stabilità interno per i comuni virtuosi. Soddisfatta la maggioranza che dice è stata ritrovata la collegialità, fortemente critica l'opposizione che parla di poca serietà da parte del governo. E da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta. E dalla manovra novità anche per la Croce Rossa. È nata nel lontano 1864, ha prestato servizio durante la terza guerra di indipendenza e poi anche nel primo e nel secondo conflitto mondiale, ma potrebbe non sopravvivere alla manovra 2011, o almeno non come ente pubblico. È la Croce Rossa italiana che, stando alla bozza della manovra all'esame del governo, verrà privatizzata a causa del suo costante deficit finanziario. L'ente, che si occupa di assistenza sanitaria ma anche di emergenze, migranti e cooperazione internazionale, diventerà privato dal 2012 perché, sostiene il ministro della Salute Fazio, lo sono anche tutte le altre Croce Rosse internazionali. Secondo il provvedimento, i dipendenti militari verranno assorbiti dal Ministero della Difesa, mentre quelli civili, assunti a tempo indeterminato, rischiano di essere posti in mobilità. Tutti i contratti precari sembra invece che verranno risolti entro la fine di quest'anno. Una soluzione contro la quale hanno protestato per due giorni davanti a Montecitorio i sindacati di base, che denunciano come ancora una volta si colpiranno i lavoratori. Paolo Riva, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E oggi naturalmente Il Sole 24 Ore dedica ampio spazio alla manovra con tutti i dettagli della bozza che però, lo ricordiamo, resta tale fino all'approvazione domani in Consiglio dei Ministri, quindi arriveranno sicuramente altre modifiche e ritocchi. In diretta con noi il collega del Sole 24 Ore, Dino Pesole. Buongiorno Dino. Buongiorno. Allora, una manovra fra i 43 e 47 miliardi, 2 miliardi subito per coprire le spese inderogabili, 5 sul 2012, 20 sul 2013 e 2014. Basterà questa manovra a rassicurare i mercati, secondo te? Beh, appunto, è in questa composizione che tu hai appena elencato il punto interrogativo. Certamente una manovra nominalmente molto impegnativa, anche dal punto di vista proprio delle risorse che vengono messe in campo. Il problema fondamentale è appunto che si rinvia sostanzialmente il grosso dell'intervento al 2013-2014 e l'idea appunto è che questo intervento servirà a raggiungere il pareggio di bilancio. Non so se servirà, però, se sarà sufficiente a rassicurare i mercati. Io ho un po' l'impressione che forse occorrerà potenziare l'intervento per quest'anno e il prossimo, magari già in autunno con la legge di stabilità. Ecco, al momento comunque governo salvo, perlomeno insomma l'accordo è stato trovato all'interno della maggioranza, ma Tremonti che partita si sta giocando? Ma Tremonti si sta giocando una partita molto impegnativa, è una partita che da un lato punta a rassicurare i mercati e questo ovviamente è il compito più importante. Ha una sponda fondamentale a Bruxelles perché si sta giocando anche una partita di credibilità personale, ma anche diciamo dal punto di vista dell'azione che mette in campo per il risanamento dei conti pubblici, e poi secondo me si sta giocando una partita molto importante tutta interna in Italia, perché obiettivamente Tremonti è il personaggio che più si sta accreditando a livello internazionale come il garante della stabilità dei conti pubblici e dunque forse già sta lavorando a un suo incarico futuro che potrebbe anche essere non quello attuale. Grazie a Dino Pesole, collega del Sole 24 Ore. Naturalmente di manovra torneremo a parlare sia stasera sia domani in occasione appunto dell'approvazione in Consiglio dei Ministri. Andiamo invece all'estero. I talebani attaccano l'hotel Intercontinental di Kabul, residenza di molti occidentali. 18 i morti. Gli attentatori erano 8, dicono le autorità afghane, e nessuno di loro è sopravvissuto all'intervento congiunto di Polizia Nazionale, Esercito e forze della coalizione internazionale, attraverso un'unità di intervento rapido e gli elicotteri della NATO. La battaglia comunque è durata quasi 5 ore. Delle altre vittime, la maggioranza sono dipendenti dell'albergo e 2 i poliziotti, una decina i feriti. Questo secondo le autorità, appunto. I talebani, che hanno subito rivendicato l'azione, sostengono invece che i morti siano una 50 almeno. Nell'albergo, che tra i più frequentati dagli occidentali, vi erano al momento una festa di nozze e alcune centinaia di ospiti tra afghani e stranieri riuniti per discutere il passaggio delle attività di sicurezza dalla comunità internazionale alle forze afghane. Inaugurato nel 1969, l'hotel Intercontinental era già stato colpito da un attentato nel 2003, ma in quel caso non vi erano state vittime. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il commento di Alberto Negri. Dal tetto dell'Intercontinental, dove i talebani sono stati spazzati via dagli elicotteri della NATO, si ha dall'alto la visione di un quartiere strategico di Kabul. Fu disegnato dai russi riproducendo il simbolo dell'Unione Sovietica. Ancora oggi qui risiedono gli alti ufficiali dell'esercito e della polizia afghani. Il raid della notte scorsa è stato un messaggio diretto a loro e al presidente Karzai. Quando gli americani se ne andranno, se mai accadrà, i talebani vogliono tornare a essere i padroni di Kabul. Per ora tengono sotto assedio la capitale con le azioni del terrorismo, mentre le fazioni afghane si stanno alleando, secondo le antiche divisioni etniche e tribali, per combattere nuove battaglie. Il nuovo Afghanistan assomiglia maledettamente a quello vecchio. E c'è un'altra piazza molto tesa questa mattina, quella del Cairo, in Egitto. Migliaia di persone stanno convergendo sul Ministero dell'Interno in una strada adiacente a Piazza Tahrir e le forze dell'ordine stanno cercando di disperderle con lanci di lacrimogeni e cariche. Ieri si erano verificati già scontri con feriti durante le manifestazioni per chiedere la rimozione del capo del Consiglio Supremo delle Forze Armate, Hussein Tantawi. Torniamo in Italia con il tema giustizia in diretta. Elisabetta Fiorito. Sì, ancora un nulla di fatto alla Camera per Alfonso Papa, il deputato PDL è finito nell'inchiesta della loggia P4, la giunta per le autorizzazioni di Montecitorio è stata rinviata a mercoledì prossimo, dopo aver ascoltato la relazione di Francesco Paolo Sisto del PDL che dice nei confronti di Papa ci sono stati pedinamenti, intercettazioni e foto, dobbiamo tenere conto di questi parametri molto gravi e del fatto che le esigenze cautelari non sono calibrate. Sisto ha quindi sostenuto la tesi del fumus persecutionis. Per quanto invece riguarda l'inchiesta vera e propria, si difende anche il generale Vito Bardi, comandante interregionale della Guardia di Finanza dell'Italia Meridionale, indagato nell'inchiesta per favoreggiamento e rivelazione di segreti. Bardi non ha mai avuto contatti né conosciuto il manager Luigi Bisignani, spiega l'avvocato Vincenzo Siniscalchi, né ha mai intrattenuto rapporti con il magistrato parlamentare Alfonso Papa, avendolo a volte incontrato in occasione di cerimonie istituzionali. Per Siniscalchi, infine, Bardi ha rispettato le regole di disciplina d'istituto e di catena gerarchica. E per il momento qui da Montecitorio è tutto, voi studio. Ancora proteste a Napoli per la situazione dei rifiuti, intanto il ministro Fazio è nel capoluogo campano, ma Napoli è anche una città turistica. Che impatto sta avendo la questione rifiuti sul comparto? Ce lo spiega Ettore Cucari, presidente della Fiavet Campania, la federazione delle imprese del settore. Il danno economico è difficile da quantificare in cifre. Siamo ben certi che negli ultimi anni abbiamo avuto dei decrementi di turismo laddove il turismo nel mondo aumenta dell'8-10% l'anno. I paesi del Nord Africa hanno avuto queste disgrazie, avevano dei grandi flussi turistici e gli altri paesi si sono allertati. Tunisia, Spagna e Grecia sono riusciti a intercettare questi flussi turistici. A noi chiaramente con questo handicap riesce più difficile intercettare. Le cifre alla fine sono sempre più basse, quando non è scoraggiante la cifra delle presenze, è scoraggiante la cifra dei bilanci. Napoli oggi risulta essere una delle città più economiche d'Italia, quindi abbiamo dovuto abbassare i prezzi per mantenere un certo numero di presenze turistiche. Nel comparto turistico però c'è un punto forte che potrebbero essere le crociere. Le crociere aumentano sicuramente gli scali nel porto di Napoli, ma aumentano perché è baricentrico il porto di Napoli, ogni anno vengono varate altre navi da crociera e quindi il crocierista sicuramente arriva al porto di Napoli, scende. Naturalmente ci devono fare due considerazioni. Da una parte c'è tanti crocieristi che scendono, come lei sa, per poche ore, quindi non è che portano dei grandi flussi di ricchezza, però d'altra parte questi turisti girano per Napoli e poi riferiranno con un tam-tam, che è quello lì che funziona nel mondo del turismo. Questo tam-tam sarà positivo o negativo? Nella prima parte di GR24 abbiamo parlato di quanto sta accadendo in Grecia, in piazza contro il piano di austerità del governo necessario per non perdere gli aiuti internazionali. In questi minuti il voto in Parlamento. La manovra da 47 miliardi domani all'esame del Consiglio dei Ministri dopo l'accordo interno alla maggioranza e poi P4, la giunta per le autorizzazioni della Camera, rinvia il voto sulla richiesta di arresto per Alfonso Papa. Ripartiamo invece dalla brutta, davvero molto brutta storia del ragazzo ammazzato a Roma per motivi che al momento sfuggono. In diretta qui accanto a me Paolo Piacenza. Piera. La vicenda ha davvero dell'incredibile. Un giovane musicista romano 29enne è morto questa mattina in seguito all'aggressione da parte di alcune persone intorno alle 2 di notte tra sabato e domenica nel Rione Monti in via dei Serpenti. Oggi due giovani baristi romani di 21 anni sono stati arrestati dalla polizia municipale per l'aggressione del giovane musicista. Altri due aggressori sono ricercati. Il giovane è stato aggredito dopo aver suonato in un locale di via Leonina con alcuni amici. Stavano uscendo dal bar quando un uomo si è affacciato al balcone urlando la sua protesta per il rumore, poi è sceso in strada con un bastone. Poco prima un altro residente era sceso con una frusta contro i quattro. L'uomo col bastone è sceso per inseguire i quattro musicisti. L'inseguimento è finito in via dei Serpenti, dove l'uomo col bastone è andato via, e sono sbucati invece altri quattro giovani che a quanto pare hanno aggredito i musicisti. A questo punto, che il 29enne, già aggredito da calci e pugni, è stato colpito con un colpo di casco, è svenuto, è entrato in coma mentre gli aggressori fuggivano. Probabilmente, ma qui siamo nel campo delle ipotesi, gli aggressori volevano punire il giovane per gli schiamazzi marcando il loro territorio. I due arrestati, che hanno precedenti penali che sono stati riconosciuti grazie a Facebook, hanno sostenuto di averlo fatto per legittima difesa, ma la loro versione non corrisponde al racconto dei testimoni. In realtà nella zona c'è grande tensione trasversale, potremmo dire, perché il nodo del problema è il rumore, che nella zona Monti, dove è una zona dove c'è la movida notturna della vita di Roma, le proteste si susseguono da vario tempo. Grazie a Paolo Piacenza. Restiamo sulla cronaca. Udienza preliminare al Tribunale di Salerno nei confronti di Danilo Restivo, unico imputato per l'omicidio di Elisa Claps. È stato concesso il rito abbreviato e il processo è in programma per l'8 novembre. Fiduciosa mamma Filomena, che ha partecipato a tutte le udienze, forte della perizia dei RIS che hanno attribuito proprio a Restivo il sangue sulla maglia della vittima al 99,9%. Sembra sereno però anche l'imputato, che in Gran Bretagna è chiamato a rispondere di un altro omicidio, quello della sua vicina di casa, Heather Barnett. I metalmeccanici della CGIL contestano l'intesa sulle nuove regole per i contratti siglata ieri sera da sindacati confederali e Confindustria. Per la FIOM si tratta di un accordo liberticida. Questa mattina la numero uno della CGIL, Susanna Camusso, sta illustrando ai segretari generali delle varie categorie del suo sindacato proprio i punti dell'intesa. Ma intanto sentiamo cosa prevede l'accordo. L'intesa raggiunta ieri sera integra gli accordi sul modello contrattuale del 2009. Resta fermo il ruolo dei contratti nazionali, che stabiliranno salari, normative per tutto il settore e ambiti di applicazione dei contratti aziendali. Al tavolo per i rinnovi potranno sedersi solo i sindacati che raggiungono almeno il 5% dei lavoratori del settore. A certificare il peso di ogni sigla saranno l'INPS e il CNEL. Per quanto riguarda i contratti aziendali, potranno anche definire in via sperimentale e temporanea deroghe alle regole previste dal contratto nazionale. Quelli approvati dalla maggioranza delle RSU saranno validi per tutto il personale e vincoleranno tutte le associazioni che hanno firmato l'intesa di ieri. Gli accordi aziendali approvati dalle RSA dovranno invece essere sottoposti al voto dei lavoratori. I contratti aziendali potranno anche stabilire clausole di tregua sindacale, che dovranno essere rispettate dalle rappresentanze sindacali, ma non dai singoli lavoratori, che potranno sempre scioperare. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Due barconi con a bordo oltre 500 persone originarie dell'Africa subsahariana sono arrivati questa mattina a Lampedusa. E volano i prezzi per l'inaspettato rincaro delle accise di 4 centesimi al litro su benzina e diesel deciso dal governo per fronteggiare l'emergenza immigrati. L'aumento è stato recepito questa mattina da tutte le compagnie petrolifere, aumentando i prezzi raccomandati di verde e diesel di 4,8 centesimi al litro. 6 bambini su 10 in Italia viaggiano in auto senza seggiolino e senza cinture di sicurezza. Fra i 5 e i 14 anni gli incidenti stradali sono la prima causa di morte. Sono i dati emersi da un'indagine dell'ACI, che ha testato proprio i seggiolini più sicuri. E forse non tutti i genitori sanno che i seggiolini vanno utilizzati non solo nei primi anni di vita, ma fino a 12 anni. Al microfono di Anna Migliorati, il presidente dell'ACI, Enrico Gelpi. Il dato è preoccupante perché c'è veramente una scarsa attenzione a questo problema. Più delle volte anche una semplice frenata brusca in città può provocare danni importanti ai bambini. Quindi è importante sensibilizzare i genitori a utilizzare il seggiolino per il trasporto dei propri figli. Una delle domande che molti genitori si fanno è appunto fino a che età un bambino ha bisogno di un seggiolino, di un supporto in auto. Che ci sono diciamo, dei seggiolini che sono strutturati per le varie età dei bambini, fino a quando non sono in grado comunque di essere allacciati alle cinture di sicurezza che la vettura monta. Dove si posiziona il seggiolino e quanto evita incidenti? Guarda, il seggiolino è importantissimo. Poi ci sono, come ho detto, vari tipi. Ci sono alcuni che vengono piazzati sul sedile posteriore, altri invece sul sedile anteriore, in senso contrario alla marcia della vettura. Quindi c'è un'ampia possibilità di scelta. Certamente questa inchiesta che noi abbiamo fatto evidenzia anche che ci sono seggiolini più idonei, più sicuri rispetto ad altri. Tra l'altro questa è solo una prima campagna di sensibilizzazione, perché si apre un decennio molto importante. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha deciso di dichiarare i prossimi 10 anni il decennio per la sicurezza stradale, tra il 2011 e il 2020. Qual è l'obiettivo per l'Italia? Beh, l'obiettivo è un obiettivo ovviamente globale per l'Italia, è quello di proseguire ulteriormente nella politica sulla sicurezza stradale per stroncare una mortalità sulle strade che assomiglia più a una guerra non dichiarata. Insomma, ci sono oltre 4.000 morti all'anno, quindi sono veramente dati importanti. E sabato le nozze reali, cambiamo dunque argomento. Tutto pronto per il matrimonio di Alberto di Monaco e Charlène, ma chissà se Charlène sia davvero pronta in cuor suo a questo passo. I giornali parlano infatti di una fuga tentata da Monte Carlo. Ne parliamo questa mattina con Enrica Roddolo, giornalista che di sangue blu se ne intende davvero, ha scritto infatti Dio salvi le regine e Cuori blu, fra gli altri. Buongiorno Enrica. Buongiorno a tutti voi. Allora, tu ci credi a questa presunta fuga di Charlène? Ma diciamo subito che sicuramente indossare i panni di principessa non è un affare facile. Lo sa bene persino la principessa Caroline, che qualche tempo fa confidò, beh certo, ci si sente in uno stato di giustificazione permanente. E questo spiega anche perché ci sia stato negli ultimi tempi questo moltiplicarsi di fondazioni benefiche, di impegno veramente sul campo da parte di tante teste coronate. Detto questo, mi sembra che ci sia in questa frenetica attesa di queste nozze alla Rocca anche un tentativo mediatico di individuare una nuova principessa triste a tutti i costi, nel senso che si è visto il grande successo di affetto popolare e anche di successo proprio mediatico che hanno avuto Kate Middleton e Pippa Middleton con il matrimonio di Londra, e quindi hanno in un certo senso occupato il posto che era stato quello della Diana trionfante, regina del glamour, della moda e della mondanità negli anni migliori. Però manca sempre un personaggio che oggi impersoni quello che è stata invece la principessa Diana, la principessa triste, negli anni in cui il suo matrimonio con il principe Carlo non andava bene, finì per naufragare. E quindi, guardando così il panorama del Gotha internazionale, credo che ci sia un po' la forzatura di voler a tutti i costi far indossare a Charlène Whitstock questi panni di principessa triste. Io Charlène l'ho intervistata a Palazzo con il principe Alberto un paio di settimane fa. Certo, mi è sembrata una donna molto consapevole, diciamo, del ruolo impegnativo che va a rivestire con questo matrimonio. D'altronde il precedente di Greschelli direi che è un mito, un benchmark quasi ineguagliabile. Non facile da eguagliare. Certo, grazie mille, grazie ad Enrica Roddolo, giornalista che appunto ha scritto Dio salvi le regine e Cuori blu. Andiamo invece allo sport, perché da Milano, dove è impegnata nello Swimming Cup, Federica Pellegrini si racconta e dopo la vittoria di ieri nei 100 stile libero parla di mondiali di luglio a Shanghai, del trasferimento a Parigi e del suo futuro dopo le Olimpiadi di Londra 2012. Ci sono degli obiettivi, questo sempre, come tutti gli appuntamenti più importanti della stagione, però sinceramente vorrei pensare solo andare lì, stare più tranquilla e serena possibile, pensare solo a divertirmi facendo le mie due gare regine, 200 e 400 di sicuro, poi vedremo la staffetta, gli 800, decideremo lì per lì. Umanamente Parigi mi ha dato comunque un fatto di rimettersi in gioco, ricostruire tutto da capo, sportivamente lo stesso, e devo dire che è stata una scelta molto giusta. Poi per quanto riguarda Londra, sì, ho sempre detto che comunque dopo Londra deciderò cosa fare della mia carriera. Mi sembra, man mano che mi avvicino sempre di più, un po' impossibile pensare che tra un anno smetterò di nuotare, quindi quindi assolutamente magari prenderò un anno più tranquillamente, che non significa che smetterò di nuotare. Abbiamo aperto questo GR24 parlando della Grecia, degli scontri in piazza in occasione del voto in Parlamento del nuovo piano di austerity che doveva arrivare proprio intorno a quest'ora. Il Vittorio D'Arold, il voto non è ancora arrivato, ma dicevamo che non dovrebbero esserci grandi sorprese. No, non ci dovrebbero essere grandi sorprese, però l'attenzione naturalmente resta alta, perché in Grecia in questo momento si sta giocando, come ha detto ieri anche il commissario europeo Olli Rehn, la stabilità dell'euro. Sembra incredibile, ma un piccolo paese di 12 milioni di abitanti, con appena il 2% del PIL di tutta l'Unione Europea, quindi veramente piccola cosa, tenga tutti appunto sulla corda. Sono i mercati globali, il fatto che il suo debito di 340 miliardi è in mano alle banche francesi e tedesche, soprattutto in mano agli hedge fund, ai fondi, e ci sono tanti CDS su questo, e quindi è diventata una Lehman Brothers dell'Egeo. Ecco perché ci serve sapere come va a finire. Grazie a Vittorio D'Arold. Questo GR24 è stato curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Mauro De Angeli. Prossimo GR24 alle 14. GR24, il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.